alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Questa è musica popolare tedesca, spero, non svizzera. Tutte le mie occhette qui nuotano sul mare. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. E le codine in alto. Comunque se più che mare direi che è laghetto. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Oh, voglio subito ricordare che c'è un concorso indetto per un video. Il video più idiota della canzone più idiota del bambino Alberto, che presupponiamo idiota. Sia idiota. Esatto. Fate un video di quelli che descrivono per immagini il testo della canzone. Didascalico, idiota, il più idiota per possibile. Per ogni parola pronunciata, un'immagine che è esattamente quella parola lì. Potrete vincere un weekend intero col bambino Alberto. Ecco, io non ho capito come funziona questa cosa del weekend. Cioè il vincitore del comincia concorso comincia il venerdì e finisce sì, il lunedì. Sì, però comincia a casa del bambino Alberto e finisce a casa del bambino Alberto. Oppure il bambino Alberto va a casa a piacere, del vincitore. A piacere. Ma il bambino Alberto le sa queste cose? No. No, i suoi genitori lo sanno, hanno già concordato, anche il compenso è stato concordato, quindi sì, tutto regolare. Vabbè, cosa? No, niente, temo solo la reazione del bambino Alberto. Ma quando saprà che dovrà trascorrere un weekend con uno sconosciuto o una sconosciuta, darà di matto e poi ma lui piace la celebrità, poi mi sa, la sconosciuta magari. Dici. Sai lui com'è? Poi lui si crogiola, no? Nell'autocompiacimento. Dici. Quindi vedrai che non ci sarà nessun problema, proprio non c'è problema. Allora, se per lui non c'è problema, per noi nemmeno. Quindi cominciamo un'altra giornata all'asilo e cominciamo nel migliore dei modi, e cioè con un bel Wunderwaffer. Wunderwaffer. Wunderwaffer è a base di segale cornuta e finocchi cotti. Può avere effetti indesiderati anche gravi, come la trasformazione di un soggetto sano in un adepto di comunione e liberazione. L'ingestione di una quantità eccessiva di prodotto può causare comportamenti che possono essere fonte di pentimento. Wunderwaffer può indurre egocentrismo, delirio di onnipotenza e crisi di identità. Le statistiche mostrano che numerosi transgender dichiarano di aver assunto quotidianamente Wunderwaffer per un lungo periodo. Non è stata però scientificamente dimostrata la connessione tra l'assunzione del prodotto e il desiderio di cambiare sesso. È sconsigliata la fruizione del prodotto ad un pubblico adulto. Non somministrare a bambini. L'ingestione di Wunderwaffer è dannosa per le donne in gravidanza e per un pubblico biondo. Le allucinazioni sporadicamente causate dall'assunzione del prodotto possono rendere l'individuo interessato preda di facile entusiasmo. Pertanto, i matrimoni contratti dopo ingestione di Wunderwaffer non sono riconosciuti dalla legge. Chiedo asilo! Tito, dai, basta! Ma cosa c'è? Ciu, cuccio! Frost! Ust! Che lingue sono? Frost! Queste? Dai, Robert è un Frost. Poeta, sì. Esatto. Comunque, qui stiamo attenti, che sennò finisce poi come a Montecatini Terme, dove un cane grande quanto Tito ha tenuto in ostaggio per settimane un asilo intero, hai capito? Come? È un cagnetto così. Per settimane? Ma sì, cosa stai i bambini dicendo? Avevano paura a uscire per la ricreazione. Quindi, una settimana il preside ha mandato un'ordinanza a tutti gli insegnanti: non fate uscire i bambini durante la ricreazione perché c'è il cane. Allora a quel punto i genitori sono incazzati perché hanno detto: vabbè, scusa, ma per un cane i nostri bambini devono stare in aula, non possono andare a fare la ricreazione fuori come sempre. Beh, allora, lo so, a Milano dei cani hanno sbranato uno di 70 anni, quindi a volte ma magari era un cagnetto alto 20 centimetri. Il sindaco, non si quindi, sa mai, 20 centimetri. È stato il sindaco, è dovuto arrivare lui a chiedere al padrone del cane in questione di alzare un po' la rete di recinzione di casa sua, perché era quello il problema. Il cane saltava. Ci sono dei cani che non te l'aspetteresti, come Tito. Tito, calmo! Perché Tito, quando è geure, attenzione, nemmeno un sindaco di Montecatini può far qualcosa, perché Tito, in quanto bassotto geure, è a prova di sindaco. Steven Spielberg presents Burr. Ci sono un paio di cose che ho dimenticato di dirvi. Sono molto importanti. Numero uno, lui odia la luce forte, l'avete visto. Quindi bisogna tenerlo lontano dalla luce del sole, altrimenti morirebbe. Numero due, tenerlo lontano dall'acqua. Non bisogna mai dargli acqua da bere. E in nessun caso mai fargli il bagno. Ma probabilmente la cosa più importante è che, dopo mezzanotte, non deve assolutamente mangiare. Mm-hmm. Che cosa sarà? Non lo so. Directed by Steven Spielberg. Volevo segnalare una strana espressione che ho sentito usare in TV. Più strana ancora di girl girl, è che leggo anche sui giornali come se fosse chiara e comprensibile a tutti, e cioè l'espressione la foto di Vasto. Di Vasco, la foto di Vasco. Dai, vedi, nemmeno tu. Cioè, i commenti politici sui quotidiani a volte danno per scontato che la foto di Vasto, non come di Vasco. Come il predellino. Esatto, no? Il predellino bis, si è arrivati a dire. Vabbè, foto di Vasto vuol dire unione tra Partito Democratico, Vendola e Di Pietro. Hai capito? Cioè. E i giornali la usano, cioè, usano questa espressione come se tutti davvero sapessero che la foto di Vasto vuol dire quella cosa lì. Ma cosa c'entra la foto? Cosa c'entra Vasto? Chi è Vasto? Vasto. Allora, cominciamo un attimo. La foto so cos'è. Vasto cos'è? Vasto è una città in provincia di Chieti, dove è stata scattata la foto di Vasto. Che è la foto di Bersani, Vendola e Di Pietro abbracciati. Mica Yalta, no? Con Stalin, Roosevelt. Ecco. Quindi quando si dice la foto di Vasto, in realtà vuol dire l'alleanza elettorale tra PD, SEL e IDV. Però se tu guardi le agenzie su internet, guarda qui, leggi cose come testuale PD, due punti, Borghesi, aperta parentesi, IDV, chiusa parentesi, virgola, non si può liquidare foto di Vasto. Ma non si capisce niente. Tu pensa a un cronista della BBC che deve scrivere un articolo per il pubblico inglese, deve far capire il concetto di the picture of Vasto, o peggio ancora, the picture of Wide. No, ma cosa c'entra adesso Oscar Wilde? No, non Wilde, Vasto. Wide, perché Vasto in inglese si dice Wide. Questo è molto divertente. Vabbè, ma esistevano già, scusa, l'accordo della pagliata, il patto della crostata. So. Non è che la foto di Vasto sia tanto peggio. Ma ti rendi conto, il patto della crostata. Ma il cronista inglese, sai, potrebbe tradurlo The Tart Pact. Cioè nel 97 Tart, The Pie Pact, non lo so. Però se ti rendi conto che nel 97 per mesi si è tranquillamente parlato di patto della crostata, per indicare in realtà una cosa piuttosto seria. Cioè un accordo mezzo segreto, un po' di nascosto, che avevano fatto D'Alema Fini, cioè, Berlusconi, Marini a casa di Letta a cena, in cui fu servita una crostata. E da lì è diventato l'accordo, il patto della crostata. Sì, però il patto della crostata diciamo ha una discendenza più nobile forse della foto di Vasto. Dici. Perché l'aveva coniato Cossiga come termine, capito? Così, il patto, che tra l'altro Cossiga nel frattempo anche Cossiga dopo anni passati a servire le istituzioni nei modi più improbabili, anche lui, nonostante sembrasse avesse stretto un patto col diavolo, cioè con Andreotti, anche Cossiga un bel giorno di agosto del 2010 è morto. Ma perché un bel giorno? No, perché c'era il sole. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser schwimmen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser schwimmen in die Höhe. Alle meine Entchen. A domani, chiedo asilo. Facebook, YouTube, condividete i video e fate i video idioti delle canzoni del bambino Alberto. Però in realtà dovremmo parlare noi dell'infantilismo e criticarlo satiricamente. Come un satiro, sempre con la minchia dura.